con Marie di Non Una di Meno Milano per parlare della Casa dello Sciopero. Ben trovata. Ci Grazie. parli di questa iniziativa? Sì, oggi abbiamo inaugurato a Milano la Casa dello Sciopero di Non Una di Meno, uno spazio che abbiamo deciso di proporre alla città per costruire per l'appunto lo sciopero globale dell'8 marzo contro la violenza sulle donne. In questo spazio che cosa abbiamo pensato? Di mettere a disposizione della città, di chi segue anche Non Una di Meno, tutte le informazioni necessarie per partecipare attivamente allo sciopero dell'8 marzo, dando quindi tutte le risposte, appunto, sia informative ma anche di risoluzione di problemi materiali, economici, legali, sindacali eventualmente per poter costruire la partecipazione a Non Una di Meno, allo sciopero di Non Una di Meno, allo sciopero femminista globale contro la violenza sulle donne. Come l'abbiamo fatto in realtà passando da alcuni momenti di relazione concreta. Questa mattina abbiamo organizzato un mercatino delle produttrici indipendenti, quindi un mercato di prodotti agricoli, artigianali, tessili, animato e portato avanti dalle donne produttrici. E l'idea è di dare visibilità all'importanza dell'autonomia economica delle donne per fuori uscire dai percorsi, dalle situazioni di violenza, perché questo è uno dei punti su cui Non Una di Meno ha lavorato, che ha discusso, che rivendica e che oggi all'interno della Casa dello Sciopero abbiamo voluto anche concretizzare. In un secondo momento invece ci siamo trovate e trovati ad avere un confronto propriamente legale e sindacale sulla questione dei diritti del lavoro, perché in questo momento storico in cui i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sono attaccati, ahimè, quotidianamente. Tanti di noi neanche hanno idea di quali siano i diritti a nostra disposizione e allora abbiamo cominciato a tirar fuori le difficoltà più ricorrenti nei posti di lavoro, dalle molestie, le paure di essere licenziati, al non sapere cosa fare in caso di bisogno, al non sapere come chiedere una disoccupazione o una maternità. E per trovare le risposte abbiamo appunto messo al centro tutta questa collezione di questioni che ci accomunavano e le abbiamo analizzate insieme ad alcuni compagni e compagne sindacaliste e all'avvocato del lavoro. E è stato molto prezioso perché ognuno a partire un po' dalla propria situazione ha portato sia esperienze, diciamo, negative di difficoltà, ma anche di possibili risoluzioni. Ci siamo confrontati e abbiamo cominciato a tessere quelli che per noi sono la base della soluzione, ovvero tessere legami di solidarietà. Abbiamo fatto anche alcuni lavori per affrontare la questione anche proprio sul piano psicologico, della paura di rivendicare i propri diritti, della preoccupazione che questo comporti dei rischi per le nostre situazioni di vita e facendo alcune, diciamo, quasi inciampando alcune situazioni in cui nel mondo del lavoro ci troviamo a essere in difficoltà. Oggi abbiamo affrontato la situazione nei colloqui di lavoro, quando veniamo discriminati o discriminate sui luoghi di lavoro, anche per questioni di discriminazione di genere, di razza, quando magari ci viene respinta la nostra candidatura solo perché siamo donne o solo perché siamo straniere. E insieme all'avvocata e sindacalista abbiamo imparato anche come reagire. Ecco, questo è solo un po' un esempio del lavoro che abbiamo fatto oggi e che riempie questo progetto di Casa dello Sciopero, che inauguriamo appunto in avvicinamento all'8 marzo per riempire di senso quella data, perché per lo sciopero che sindacale tutti insieme, nel senso che da una parte la grande questione è fermare la violenza sulle donne e lo facciamo con una giornata per dire che non ci va più di portare avanti, di riprodurre ogni giorno un sistema che è lo stesso nel quale subiamo violenza. Ma allo stesso tempo è anche uno sciopero sindacale perché è sul terreno, diciamo, dei problemi quotidiani che vogliamo anche intervenire, vogliamo anche fermarci insieme e provare a costruire delle soluzioni concrete per affrontare facendo rete nella solidarietà reciproca la violenza del quotidiano che affrontiamo. Quali sono le strutture che danno vita a questa esperienza? Al al cuore come mi presentavi, c'è il percorso di Non Una di Meno, che a Milano ha una sua assemblea molto eterogenea, fatta di associazioni, di collettivi, anche di singoli, che anima nei diversi quartieri di Milano una parte del lavoro. Nello specifico, la Casa dello Sciopero è nata nello spazio di Remake, uno dei nodi della rete Fuori Mercato, una rete di economia sociale e solidale che costruisce progetti di lavoro in cooperativa e secondo, diciamo, il principio del mutuo soccorso e forme di sindacalismo dal basso. Quindi, diciamo, dall'incontro tra l'esperienza di Remake come progetto sindacale cooperativo e il percorso di Non Una di Meno sulla questione centrale della violenza di genere è nata, ecco, la Casa dello Sciopero. Avrà una durata a tempo delimitato in vista della data dell'8 marzo oppure continuerà? Continuerà, ma secondo, diciamo, un percorso in due tempi. Da qui all'8 marzo avremo un appuntamento settimanale, la domenica pomeriggio alle 5, per incontrarci e cominciare appunto a costruire un gruppo che affronti le problematiche appunto che sono che abbiamo riconosciuto come le più frequenti, ma che insieme sia, diciamo, un gruppo di lavoro per fare in modo che l'8 marzo possa, in quello sciopero possa essere una risposta ai problemi che tiriamo fuori in queste prime settimane su cui lavoreremo. E poi andremo avanti dal 9 marzo in poi, diciamo anche oltre lo sciopero, perché su alcune situazioni è evidente che abbiamo in realtà bisogno di un percorso sul lungo tempo, di costruire un po' più, diciamo, nella specificità delle situazioni, le risposte collettive possibili, e anche perché nemmeno lo sciopero dell'8 marzo di quest'anno è l'ultimo, anzi, è solo il terzo, ma dal 9 marzo ci prepariamo al prossimo. Bene. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Assolutamente sì, molto volentieri. Più attivi e vivaci sono le pagine Facebook di Non Una di Meno Milano, così lo trovate, e la pagina Facebook di Remake, scritto Re-Make. Altrimenti anche via mail nonunadimenomilano@gmail.com, e lascio anche volentieri il sito di Remake, remake.noblogs.org. Perfetto. Allora, ricordiamo la struttura, l'esperienza della Casa dello Sciopero a Milano. Un saluto e un ringraziamento a Marie di Non Una di Meno, che è tra le strutture e che danno vita a questa esperienza. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille. L'8 marzo ci operiamo.